Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Una persona dall'aspetto familiare apparve sulla soglia. Era un ometto piccolo di statura, in smoking. Gli occhi ridenti di lui espressero riconoscimento e ironia. «Chi ti vedo?» disse in Yiddish. «Ah, beh, il mondo è davvero piccolo, come dicono!» Herman si alzò. «Non mi riconosce?» «Sono così confuso qui che...» «Peschles! Nathan Peschles! Venni a casa sua poche settimane fa!» «Ah, sì, certo! Perché se ne sta qui tutto solo? È venuto in questa casa a leggere libri? Non sapevo che lei conoscesse Rabbi Lampert, eh? Ma chi non lo conosce? Perché non va a prendersi qualcosa da mangiare? Stanno servendo cibarie nell'altra stanza, tipo buffet freddo. Ognuno si serve per conto proprio. Dov'è sua moglie?» «È qui, in qualche posto, non la trovo più.» Subito dopo aver pronunciato queste parole, Herman si rese conto che Peschles stava parlando non già di Masha, ma di Jadwiga. La catastrofe che aveva paventato stava per piombargli addosso. Peschles lo prese sotto braccio. «Venga, andiamo a cercarla insieme. Mia moglie non è potuta venire questa sera, ha l'influenza. Ci sono donne sempre pronte ad ammalarsi ogni volta che devono andare in qualche posto.» Peschles condusse Herman nel soggiorno. Gli invitati rimanevano in piedi, con i piatti in mano, mangiando e chiacchierando. Alcuni sedevano sui davanzali delle finestre, altri sui radiatori, ovunque fossero riusciti a sistemarsi. Peschles condusse Herman verso la sala da pranzo. C'erano moltissime persone raggruppate intorno a un tavolo coperto di cibo. Herman scorse Masha. Si trovava con un uomo basso di statura che la teneva sotto braccio. Le stava evidentemente dicendo qualcosa di molto divertente, perché Masha rideva forte e batté le mani. Quando Herman si sottrasse alla stretta dell'uomo e venne al suo fianco, l'altro la seguì. Masha aveva il viso acceso e gli occhi le splendevano di allegria. «Ecco mio marito, da tempo perduto!» esclamò. Gettò le braccia al collo di Herman e lo baciò come se fosse appena tornato da un viaggio. Il suo alito sapeva di alcol. «Questo è mio marito e questo è Yasha Kotick», disse, indicando l'uomo con il quale aveva parlato. Costui indossava uno smoking europeo dai risvolti logori. Aveva i capelli neri suddivisi da una scriminatura e lustri di brillantina, il naso a becco e una fossetta sul mento. La sua figura giovanile contrastava in modo bizzarro con la fronte rugosa e con le pieghe ai lati della bocca che, quando sorrideva, rivelava denti falsi. Aveva nello sguardo, nei modi, nel sorriso, qualcosa di beffardo e di scaltro. Rimaneva in piedi, con il braccio piegato come se si aspettasse di fare ancora da cavaliere a Masha. Increspò le labbra e questo gli fece nascere altre rughe sulla faccia. «Sicché, questo è tuo marito?» domandò, inarcando buffonescamente un sopracciglio. «Herman, Yasha Kotick è l'attore di cui ti ho parlato. Eravamo insieme nel campo di concentramento. Non sapeva che mi trovassi a New York.» «Qualcuno mi disse che Masha era andata in Palestina», fece sapere Yasha Kotick a Herman. «Credevo che si trovasse in prossimità del Muro del Pianto o della tomba di Rachele. Mi guardo intorno ed ecco qui a bere whisky nel soggiorno di Rabbi Lampert. Ecco com'è la tua America, matto d'un Cristoforo Colombo!» Imitando una rivoltella con il pollice e il dito indice, fece il gesto di sparare. Tutto in lui si muoveva con acrobatica agilità. La sua faccia era costantemente in moto, faceva smorfie e mimava nello stesso tempo. Spalancò un occhio con grottesco stupore, mentre la palpebra dell'altro si abbassava come se stesse piangendo. Dilatò le narici. Herman aveva sentito parlare a lungo di lui da Masha. Si diceva che avesse raccontato barzellette mentre scavava la propria fossa e che i tedeschi si fossero divertiti a tal punto da risparmiarlo. Nello stesso modo, le sue buffonerie lo avevano fatto vedere di buon occhio anche dai bolscevichi. Con il suo umorismo patibolare e con i suoi lazzi comici era riuscito a superare molti pericoli. Masha si era vantata con Herman dicendo che fosse innamorato di lei, ma che lo aveva scoraggiato. Questo significa, insomma, che lei è il marito e questa è la moglie, disse Kotick a Herman. E come è riuscita ad accalappiare? E lei? Se la sposa così, semplicemente, chi gliene ha dato il diritto? Questo, mi scusi, è indecente imperialismo. Sei sempre il solito buffone, disse Masha. Mi sembrava di averti sentito dire che ti trovavi in Argentina. Ero in Argentina. E dove non sono stato? Benedetti siano gli aeroplani, ti metti a sedere, bevi una birra e prima che tu abbia cominciato a russare e a sognare Cleopatra ti trovi nell'America del Sud. Che cosa hai visto in lui per arrivare al punto di sposarlo? Domandò Yasha Kotick a Masha, sottolineando le parole con un'esagerata alzata di spalle. Che cos'ha lui, per esempio, che io non abbia? Voglio saperlo. È una persona seria e tu sei uno scocciatore, rispose Masha. Lo sa! Che cosa ha sposato lei? Disse Yasha Kotick, rivolgendosi a Herman e additando Masha. Non è soltanto una donna, è un tizzone ardente e non so ancora decidere se è venuto dal paradiso o dall'inferno. La sua arguzia ci ha tenuti in vita tutti quanti. Sarebbe stata capace di sedurre Stalin in persona se si fosse presentato a ispezionare il campo di concentramento. Che cosa gli è successo a proposito a Moshe Pfeiffer? Domandò poi voltandosi verso Masha. Credevo che fossi fuggita con lui. Con lui? Ma che cosa vai cianciando? Sei ubriaco o vuoi soltanto creare zizzania fra mio marito e me? Non so un corno di niente di Moshe Pfeiffer, né mi interessa. A sentirti parlare qualcuno potrebbe credere che io e lui fossimo amanti. Aveva una moglie, tutti lo sapevano. Se sono entrambi vivi, si troveranno senz'altro insieme. Beh, io non ho detto niente, riprese Yasha. Non deve essere geloso, signor... come si chiama? Brother? Va bene, facciamo brother. Durante la guerra nessuno di noi era umano. I nazisti ci adoperavano per fare sapone kasher, e agli occhi dei bolscevichi eravamo concime per la rivoluzione. Che cosa ci si può aspettare dal concime? Se dipendesse da me, mi limiterei a cancellare tutti quegli anni dal calendario. È ubriaco come Lot, mormorò Masha. Ashless era rimasto in piedi un passo più indietro del gruppetto durante questa conversazione. Aveva inarcato le sopracciglia per lo stupore, aspettando con la pazienza di un giocatore di carte che sa di avere un asso nella manica. Aveva un sorriso raggelato sulla bocca senza labbra. Herman, in preda alla costernazione, si era dimenticato di lui ed ora si voltò da quella parte. «Masha, ti presento il signor Ashless». «Ashless? Mi sembra di aver conosciuto un Ashless in Russia o in Polonia». «Ora non ricordo più dove», disse Masha. «La mia famiglia non è numerosa. Probabilmente avevo una nonna a nome Peschel. Ho conosciuto il signor Broder a Coney Island, a Brooklyn. Non sapevo!» Peschel pronunciò queste ultime parole con una risatina. Masha guardò interrogativa Herman. Yasha Kotick si grattò furbescamente la testa con l'unghia del mignolo. «Coney Island?» disse Yasha. Ho recitato là una volta, ci ho provato, come si chiamava il posto? Ah, sì, Brighton, un intero teatro pieno di donne vecchie. Dove vanno a prenderle tante vecchie in America? Non soltanto sono sorde, ma hanno dimenticato lo Yiddish. La mia specialità consiste nel parlare male l'inglese e inserendo nel discorso parole Yiddish. Ecco quello che mi è toccato per aver detto no alle camere a gas e per essermi rifiutato di sdraiarmi e crepare in nome del compagno Stalin nel Kazakistan. È la mia sfortuna, mi è venuta l'artrite qui in America, e il cuore comincia a fare i capricci. E lei che cosa fa, signor Peschler? È un uomo d'affari? Che importa? Non tolgo mica niente a lei. Che cosa potrebbe togliermi? Il signor Peschler si occupa di proprietà immobiliari, disse Herman. Forse ha una casa per me, domandò Yasha Kotick. Le rilascerò una dichiarazione scritta garantendole che non mangerò i mattoni. Perché restiamo qui in piedi? L'interruppe Masha. Mangiamo qualcosa. Francamente, Yasha, non sei cambiato affatto. Sei sempre lo stesso piolo quadrato in un buco rotondo. E tu sei diventata estremamente carina. Da quanto tempo sono sposati loro due? Domandò Peschless a Masha. Masha si accigliò. da quel tanto che basta per cominciare a pensare al divorzio. E dove abitano? Anche loro a Coney Island? Che cos'è tutto questo parlare di Coney Island? Che cosa è accaduto a Coney Island? Domandò Masha sospettosamente. Bene, ora ci siamo, si disse Herman. Lo sorprendeva il fatto che le sue previsioni sulla catastrofe fossero state di gran lunga peggiori della realtà. Si trovava ancora in piedi, non era svenuto. Yasha Kotick chiuse un occhio e si mosse la punta del naso. Peshless si avvicinò. Inventando, signora... come dovrei chiamarla? Sono stato in casa del signor Broder a Coney Island, in quale via si trova tra Mermaid Avenue e Neptune Avenue. Ho creduto che la donna che si è convertita fosse sua moglie. Risulta che ha una graziosa mogliettina là. Glielo dico io. Questi pivelli sanno vivere, per noi americani è diverso. Quando ci si sposa si rimane sposati, ci piaccia o no. Oppure si divorzia e si pagano gli alimenti. Se uno non li paga, va al fresco. Che cosa ne è stata di quell'altra graziosa piccola donna, Tamara Broder? Me ne sono persino annotato il nome sul taccuino. Chi è questa Tamara? La tua defunta moglie si chiamava Tamara, no? Domandò Masha. La mia defunta moglie si trova in America, rispose Herman. Mentre parlava gli tremavano le ginocchia e si sentì rivoltare lo stomaco. Stava davvero per svenire, tutto sommato? Si domandò. La faccia di Masha divenne irosa. Tua moglie è per caso resuscitata? Così sembra. È quella che andasti a trovare da tuo zio, Ice Broadway? Sì. Mi dicesti che era vecchia e brutta. Così dicono tutti gli uomini delle mogli, osservò Yasha Kotick ridendo. Fece sporgere la punta della lingua e rotteò un occhio. Peshless si lisciava il mento. Non so bene adesso chi abbia le idee confuse, se io o tutti gli altri. Si voltò verso Herman. Andai a fare visita alla signora Schreier a Coney Island e lei mi parlò di una donna al piano di sopra che si era convertita al giudaismo e disse che lei era suo marito. La descrisse come uno scrittore, un rabbino o quello che è, e soggiunse che vendeva libri. Pensai che avrei potuto acquistare qualcosa da lei. Ora sentiamo, chi è Tamara? Io non so, signor Peshless, che cosa vuol dire, né perché si intrometta negli affari altrui, disse Herman. Se pensa che ci sia qualcosa di losco, perché non si rivolge alla polizia? Cerchi di fuoco gli apparvero davanti agli occhi mentre parlava. Oscillarono adagio nella sua visuale. Era un fenomeno che ricordava di aver sperimentato sin da bambino. Sembrava che i piccoli cerchi se ne stessero in agguato dietro i suoi occhi, pronti ad apparire nei momenti di tensione. Uno di essi si spostò di lato, ma tornò indietro galleggiando. «È possibile svenire e restare in piedi?» si domandò Herman. «Ma quale polizia? Di che cosa sta parlando? Io non sono, come si suol dire, il cosacco di Dio. Per quello che importa a me, può avere tutto un harem». Non fa parte del mio mondo. Credevo di poterla aiutare, in fin dei conti è un profugo lei, e una polacca gentile che diventa ebrea non è una cosa da prendere sotto gamba. Mi dicono che viaggia vendendo enciclopedie. Il caso volle che pochi giorni dopo essere stato da lei avessi l'occasione di recarmi in ospedale e far visita a una donna alla quale era stata sottoposta a un'operazione per disturbi femminili, la figlia di un mio vecchio amico. Entrai e vidi la sua Tamara. Si trovavano nella stessa stanza. Tamara si era fatta estrarre una pallottola dal fianco. New York è una città tanto grande, un intero mondo, ma anche un piccolo villaggio. Lei mi disse che era sua moglie, forse stava delirando. Herman aprì la bocca per rispondere, ma proprio in quel momento il rabbino si unì a loro. Era cieco in faccia, a causa del cuore che aveva bevuto. «Vi ho cercati dappertutto ed eccoli qui!» gridò. «Vi conoscete? Il mio amico Nathan Peshless conosce tutti e tutti lo conoscono. Masha, lei è la più bella donna della festa. Non avrei mai immaginato che fossero rimaste donne così belle in Europa. Ed ecco anche Yasha Kotick. Ho conosciuto Masha molto prima di lei», disse Yasha Kotick. «Bene, il mio amico Herman me l'aveva nascosta». «Ne sta nascondendo più d'una», soggiunse Peshless insinuante. «Lei crede? Deve conoscerlo bene. Con me recita la parte di un agnello innocente. Cominciavo a credere che fosse un eunuco. Magari fosse un eunuco come lui», lo interruppe Peshless. «Non si può nascondere niente al signor Peshless», il rabbino rise. «Ha le spie dappertutto. Che cosa sa? Su, mi metta a parte del segreto. Io non rivelo i segreti altrui. Venite a mangiare, venite in sala da pranzo, ci metteremo in fila con gli altri». «Mi scusi, rabbino, torno subito», disse Herman bruscamente. «Dove sta correndo?» «Torno subito». Herman si allontanò in fretta e Masha gli corse dietro. Dovette aprirsi un sacco a portoni tra la ressa. Non seguirmi, torno tra un momento. Chi è questo Peshless? Chi è Tamara? Masha afferrò Herman per la manica della giacca. Ti supplico, lasciami andare. Dammi una risposta sincera. Devo vomitare. Wake up in New York. Si strappò a Masha e corse in cerca del bagno. Urtò persone che a loro volta lo urtarono. Una donna gli urlò dietro perché le aveva pestato i calli. Uscì nel corridoio e vide tutta una serie di porte attraverso la nebbia del fumo, ma non poteva sapere quale fosse quella del bagno. Cominciò a girargli la testa. Il pavimento gli dondolava come una nave. Una porta si aprì mentre qualcuno stava per uscire dal bagno. Precipitandosi dentro, Herman si trovò addosso all'uomo che usciva e che lo rimproverò. Corse fino alla tazza del water e il vomito gli si riversò dalla bocca. Aveva un ronzio nelle orecchie, un martellamento nelle tempie. A conati spasmodici il suo stomaco gettò fuori acidi, sapori amari e fetori che egli aveva dimenticato esistessero. Ogni volta che credeva ormai svuotato lo stomaco e cominciava a pulirsi la bocca con un pezzo di carta igienica, veniva afferrato da un altro spasmo. Gemeva, vomitava, piegandosi sempre di più. Vomitò un'ultima volta, poi si raddrizzò. Qualcuno bussò alla porta e cercò di aprirla. Herman aveva insozzato le piastrelle del pavimento, spruzzato le pareti, doveva pulire. Guardò lo specchio che rifletteva la sua faccia pallida. Prese un asciugamano e si pulì i risvolti della giacca. Cercò di aprire la finestra per far uscire il puzzo, ma non ebbe la forza di sollevarla. Alla fine fece un ultimo sforzo e la finestra si aprì. Neve indurita e ghiaccioli pendevano dal telaio. Herman respirò profondamente e l'aria fresca lo fece rivivere. Di nuovo sentì bussare alla porta. Qualcuno scuoteva la maniglia. Aprì e vide Masha. «Stavi cercando di abbattere la porta? Devo chiamare un medico?» «Non c'è bisogno di nessun medico. Dobbiamo andarcene da qui. Ti sei insudiciato tutto.» Masha tolse un fazzoletto dalla borsetta. Mentre lo puliva, gli domandò: «Quante mogli hai?» «Tre?» «Dieci. Possa Dio svergognarti come hai svergognato me.» «Io me ne torno a casa», disse Herman. «Va pure, va dalla tua contadina, non da me», rispose Masha. «Tutto è finito tra noi. Quel che è finito, è finito.» Don't you ever want to lie down when there's no one else around? I wanna say this to you. But I'm a little scared.